Grazie Gianluca. I ragazzi stanno per uscire tutto il marchingegno che ci serve. Grazie Andrea. Facciamo un applauso a ogni volontario che serve in maniera instancabile ogni domenica. Io sono qui ogni domenica ed è bellissimo vedere che ogni domenica c'è sempre qualcuno che è desideroso di dare se stesso, di dare il proprio tempo e di dare quello che ha per Gesù. Stiamo ritornando a correre. Momento un po' così intro. Non so se a voi, io sono in alcune chat su WhatsApp dove girano questi messaggini che si intrippano a parlare, no? Allora, siamo stati in Germania con il pastore Noemi e Sara e mi hanno tempestato di questi messaggini che le persone si intrippano a dire le cose. Quindi questa sera, nel nome di Gesù, io scandirò ogni parola correttamente. Amen. Abbiamo sfottuto il pastore, però stamattina lui non l'ha fatto, quindi mo sto vivendo lo sfottò che gli ho fatto. Siamo ancora noi correndo questa corsa che Gesù ha messo davanti. Non so se vi ricordate, ma qualche mese fa abbiamo iniziato una serie attraverso il libro degli Atti degli Apostoli, dove abbiamo visto come loro correvano e come noi possiamo correre a nostra volta seguendo il loro esempio. Quanti di voi hanno mai visto questa scatolina così? Quella scatolina che tu apri e dentro ci sono tutti quei bigliettini fantastici. Quanti nella loro infanzia o storia hanno avuto questa scatolina? Alzate la mano forte. Per tutti quelli che non l'hanno mai avuto, mi dispiace per voi. Questa scatolina era fantastica, cioè ogni giorno, quando i miei amici mi venivano a chiamare per andare al mare, con la mia famiglia noi l'aprivamo, ci mettevamo sul divano e ognuno pescava un bigliettino. E poi tu lo pescavi e lo sceglievi il colore bello, noi prendevo sempre il giallo. E dopo diceva, e c'era un versetto. E questo che ho preso in questo momento dice, chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. E poi ognuno a giro diceva quello che pensava di questo versetto. Ed era un momento speciale, perché poi tutti i miei amici che non conoscevano Gesù a livello personale, perché non avevano l'abitudine di parlare con Lui, quell'occasione era unica per loro, per vivere questo. Quanti invece di voi hanno visto qualcosa tipo questo? Che è una guida rapida di installazione di un manuale di istruzioni affinché la stampante che io ho comprato possa funzionare Wi-Fi. Quanti hanno visto un foglio di istruzioni, manuale d'uso come questo? Quanti sono riusciti ad installare una stampante e a farla funzionare correttamente con il Wi-Fi? 3 persone. Bene. Tutti gli altri siete con me. Io non riesco mai ad installare niente. Cioè, qualsiasi cosa io voglio installare e fare... Amore, tienila tu questa cosa, che non la voglio vedere. Ogni volta che io cerco di installare qualcosa, non riesco mai. È vero? Quanti sentono il dolore e la frustrazione con me in questo momento? Grazie, siamo tantissimi. Dopo vi vengo ad abbracciare. Molto spesso, noi credenti, cristiani, ci approcciamo a quella che è la parola di Dio come se fosse una scatola che dobbiamo aprire, da cui devono uscire tutte le promesse per la nostra vita. E quindi l'apriamo e iniziamo a vedere qual è questa promessa che Gesù ha per me, qual è quello che Lui vuole fare per me. E quasi limitiamo quello che è il nostro approcciarci alla parola di Dio. Altre volte invece apriamo la parola di Dio e la leggiamo come se fosse un manuale di istruzioni. E quindi dobbiamo iniziare a seguire tutte le regole che ci sono, non dire le parolacce, non rubare, non dire le bugie. Allora poi le cose grosse, no? Riusciamo. Poi le parolacce, le bugie. E viviamo quella stessa frustrazione di quando la stampante non va con il Wi-Fi. E tu ti sei letto tutto il manuale e l'hai fatto tutto quello che c'era scritto, però la stampante non va. E molto spesso la nostra vita, quando noi ci approcciamo alla lettura della Bibbia come se fosse una scatola piena di promesse o un manuale di istruzioni, non funziona come dovrebbe funzionare. Perché in realtà ci stiamo perdendo quello che è il fondamentale valore e significato che la Bibbia è. Perché la Bibbia ci racconta una storia. La Bibbia ci racconta una storia che ha un inizio e una fine. La Bibbia ci racconta una storia che inizia e che finisce. E lo leggiamo in Genesi, lo leggiamo in Apocalisse, inizia con la creazione di un cielo e di una terra. La parola creò il cielo e creò la terra. E finisce con un nuovo cielo, che non sappiamo come sarà, e una nuova terra, che non sappiamo come sarà. E sarà una creazione restaurata da quello che è il piano e la missione che Dio ha. Perché questa parola, che è vivente, fratelli e sorelle, amici e amiche, ci racconta una storia che parla della missione di Dio. Parla di quella missione che Dio aveva per salvare e redimere il nostro mondo rotto, dilaniato, distrutto dall'odio, dal peccato, dalla mancanza di perdono, dall'egoismo, dalla disubbidienza. E questa parola ci parla del piano di salvezza che Gesù aveva stabilito per l'intera umanità. E questo piano di salvezza è bellissimo vedere come inizia da subito. Da subito, se noi iniziamo a leggere la Bibbia, vediamo che in Genesi Dio chiama Abramo e dice: io ho scelto te perché io voglio salvare l'intera umanità, perché si sono allontanati da me, perché si stanno uccidendo, perché si stanno facendo del male, perché non sanno più che significa avere un padre che li ama. E io scelgo te, Abramo, perché in te io voglio chiamare una nazione che possa testimoniare di quello che io sono, del padre che io sono, dell'amore che io ho. E dopo di Abramo continua con la promessa del popolo di Israele, un popolo che avrebbe portato la salvezza su questa terra, un popolo attraverso il quale sarebbe arrivato un re che avrebbe regnato, un nuovo mondo, un nuovo cielo, una nuova terra con la sua giustizia. E quando noi leggiamo la Bibbia e ci rendiamo conto che quel piano di salvezza che Dio aveva stabilito di voler scrivere quando ci ha dato questa parola ha il culmine con Gesù, noi comprendiamo qual è il nostro posto su questa terra. Noi comprendiamo perché siamo qui. Noi comprendiamo perché viviamo e perché la nostra vita ha valore e ha senso. Ed è storicamente dimostrato che Gesù è realmente esistito. È storicamente dimostrato. Quanti di noi hanno studiato Alessandro Magno a scuola? Quanti credono a quello che la storia di Alessandro Magno dice sui libri? Lo studiamo? Voi sapete che ci sono meno prove che testano la veridicità della vita di Alessandro Magno che noi studiamo oggi, che prove che testano la veridicità della vita e dell'esistenza di Gesù Cristo? Ci sono più prove che dimostrano che Gesù è esistito che non in Alessandro Magno, che noi diamo per scontato che è vero quello che noi studiamo e quello che noi impariamo. Gesù, una vera persona apparentemente come me e come te, ma figlio di Dio, è venuto su questa terra ed è morto su quella croce ed è risorto. E quando lui è risorto ha distrutto, ha frantumato il potere della morte. Ha frantumato il potere della morte e si è andato a sedere alla destra del Padre e ha compiuto quel piano di salvezza che Dio aveva in mente per me e per te per l'eternità. E quando noi comprendiamo che attraverso della sua morte, della sua resurrezione, lo Spirito Santo è sceso, e indovina un po', la Chiesa è stata chiamata a continuare quella missione che Dio aveva scelto dall'inizio, dall'eternità passate fino all'eternità future, di portare avanti, e ha chiamato noi, e ha chiamato me e te a continuare a portare avanti quella missione che Dio ha sempre avuto in mente. È come se la nostra vita fosse un piccolo tassello di una storia molto più grande. È come se la nostra vita fosse un piccolo tassello di una storia molto più grande che il piano di salvezza che Gesù aveva per l'intera umanità e per l'intera creazione. E quando noi iniziamo a comprendere che approcciandoci a questo libro impariamo qualcosa ed entriamo a far parte di una storia che è iniziata molto tempo prima che io e te potessimo arrivare su questa faccia della terra. Una storia che continuerà molto tempo dopo che noi due, che noi tre, che noi 100, che noi 200 continueremo ad esistere su questa terra e continuerà fino a quando Gesù non ritornerà e non creerà un nuovo cielo e una nuova terra. Quando noi comprendiamo che la nostra storia è un tassello di questa storia più grande, la nostra vita diventa qualcosa di straordinario, perché quel tassello che noi possiamo iniziare a scrivere porterà vita e darà valore e significato a un altro tassello e darà valore e significato ad un'altra vita e aggiungerà valore e significato alla missione che Dio ha di salvare questa terra. E noi siamo parte di tutto questo. Quando noi ci approcciamo a leggere la Bibbia con questa consapevolezza e la smettiamo di trovare delle promesse per noi che ci piacciono, perché poi la cosa bella di questa scatola è che ci sono tutti i versi belli, non ci sono quelli brutti, perché deve essere di incoraggiamento. Se noi smettiamo di approcciarci alla Bibbia come se fosse un manuale di istruzioni che non riusciremo mai a mettere in pratica, perché la vita che Gesù ha chiamato noi a vivere è una vita straordinaria, è una vita soprannaturale che io e te non possiamo vivere. Ma quando noi iniziamo a scrivere quella nostra storia all'interno del piano di salvezza che Gesù ha preparato e diamo valore a quel piano attraverso dei nostri giorni, attraverso delle nostre scelte, attraverso di quello che Lui ha preparato per noi, correndo la nostra corsa per incontrare coloro che ancora non hanno incontrato Gesù. Per questo noi corriamo. Per questo noi corriamo. Noi corriamo per incontrare tutti quelli che sono su quella via della salvezza e che Gesù ha messo davanti a noi. Sì? Perché la nostra corsa incontrerà qualcun altro. E quel qualcun altro inizierà a capire che la sua vita con Gesù ha un valore e un significato e inizierà a correre la sua corsa e incontrerà qualcun altro e inizierà a correre la sua corsa. E il piano di salvezza che dura da eternità passata a eternità future continuerà fino a quando Gesù non ritornerà e l'intera terra sarà redenta. L'intera terra sarà redenta. Quando io penso a questo, mi sento così speciale. E io vorrei che tu potessi tornare a casa stasera sapendo dentro di te, consapevolmente, che la tua vita ha un valore speciale. Perché Gesù è morto per te ed è risorto per te e ti ha chiamato ad essere parte di una missione che Lui aveva pensato da prima che tu nascessi. E sapeva che tu se ne saresti stato parte ed era contento e non vedeva l'ora, diceva sì, sta nascendo Antonio, i suoi genitori lo stanno per fare, e poi nascerà il 21 dicembre, lui era così entusiasta perché sapeva che ti avrebbe incontrato e che la mia vita e che la tua vita dava valore. Ora, questa è la storia della maggior parte di noi e a me stravolge il fatto che io stavo camminando la mia vita di ogni giorno senza pensare che quella via che stavo percorrendo era quella via che mi avrebbe portato a Gesù. E poi, permettetemi questa frase, sono inciampato su quella croce che Gesù aveva preso al mio posto. E quella croce ha trasformato la mia vita e mi ha liberato e mi ha guarito e mi ha lavato e mi ha sanato e mi ha trasformato e mi ha cambiato e mi ha chiamato a dire cosa che dovevo seguire lui. E mi ha chiamato a fare cosa? A seguire la sua volontà. E mi ha chiamato a fare cosa? A iniziare a correre. Perché io potessi incontrare altre persone che erano su quella via della salvezza e non lo sapevano. Ma Gesù li aveva messi sulla mia strada. E forse questa è la storia della maggior parte di noi. Però forse tu stasera sei qui e non sai perché sei qui. Cioè, ti hanno invitato, no? Ti hanno detto vieni, è una cosa bella. O forse è da un po' che vieni, però non hai... Tutto questo non è familiare per te. Cioè non è... Non ti viene alla mente quello... Quando io parlo di tutto questo, non ti viene alla mente quella che è la tua esperienza, quella che è la tua vita. E tu puoi pensare, forse è un caso che io sono qui. Forse stasera non avevo niente da fare e ho deciso di venire qui perché mi hanno invitato. O forse Gesù ti ama. Forse Gesù ti ama. Assai. E ti vuole parlare faccia a faccia. Perché se lui può parlare faccia a faccia con me, che sono meno di tutti quanti noi, lui può parlare faccia a faccia con te. E tu questa sera sei qui perché lui vuole incontrare te. E forse il nostro incontrarci è perché tu possa incontrare Gesù. È perché la tua vita possa iniziare, se non lo ha ancora fatto, ad essere quel tassello che inizia a scrivere una storia diversa che è parte di una missione più grande. Sì? È per questo che noi corriamo. E io questa sera voglio leggere, voglio continuare la nostra avventura nel libro degli Atti. Perché da loro vediamo e impariamo come la storia della loro vita, del piccolo tassello che loro hanno fatto, ha procurato un rumore enorme che ci parla del fatto che noi siamo qui oggi. Perché noi siamo qui oggi perché qualcuno ha incontrato Gesù e non ha smesso di correre una corsa e incontrare le persone e raccontargli di una speranza e raccontargli di quello che Gesù è, che lui è vivo, che lui parla, che lui ci libera, che lui ci guarisce. Ed è per quello che noi due siamo qui oggi, che noi, dico sempre due, non lo so perché, che noi siamo, vi considero uno, ed è per quello che noi siamo qui oggi. Perché noi corriamo per incontrare tutti quelli che sono sulla via della salvezza. Questo è il titolo del messaggio di questa sera. E io voglio subito immergermi di nuovo nella lettura degli Atti. Li avevamo lasciati nella puntata precedente, non so per quanti di voi si ricordano, sotto una estrema persecuzione. Questo era uno dei periodi storici in cui la Chiesa primitiva negli Atti degli Apostoli è stata più perseguitata. E Saulo, leggiamo proprio che andava di chiesa in chiesa e devastava le case e trascinava gli uomini e le donne, li portava in prigione. E abbiamo lasciato Filippo, vi ricordate? Uno dei 7 ellenisti chiamati ad essere diaconi per servire alle mense. Abbiamo lasciato abbiamo lasciato Stefano lapidato e ucciso a pietrate perché aveva raccontato che lui aveva una speranza in Gesù. Questo era successo. Immaginate se noi all'uscita della fiera del crocifisso iniziamo a parlare di Gesù e ci iniziano a prendere a pietrate. Viene tipo un'autorità X e ci inizia a prendere a pietrate e tutti quanti nella fiera del crocifisso iniziano a tirarci le pietre e noi moriamo. Questo è successo a Stefano. Ed è qui che abbiamo lasciato la Chiesa in una forte persecuzione. Continuiamo quindi a leggere dal versetto 4 di Atti 8. E dice così: allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. Filippo, parentesi, Filippo era un altro dei 7 diaconi tra gli ellenisti che erano stati scelti per servire alle mense. Vi ricordate le caratteristiche di queste persone? Dovevano essere ripieni di Spirito Santo, dovevano essere ripieni di sapienza e dovevano essere di buona testimonianza per servire alle mense delle vedove e delle povere, e dei poveri tra gli ellenisti. Vi ricordate? Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida di gioia, e molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Ci fermiamo qui per il momento. La cosa che io non riesco a comprendere è che Filippo si è ritrovato da servire alle mense delle vedove e dei poveri a portare la salvezza di Gesù Cristo in un'intera nazione, in intere città e un'intera regione di quella che era la terra conosciuta in quel periodo. Un ragazzo come me e come te, se sei maschio, o una femminuccia, diciamo così, come te, chiamata e scelta per andare a servire alle mense. Forse era poca cosa. Forse è poca cosa per noi pensare questo. È arrivata a portare la salvezza ad una nazione intera. Ed è per questo che noi corriamo. Noi corriamo per incontrare la nostra nazione. E io voglio incoraggiare noi stasera a non guardare a quello che siamo e a quello che facciamo relegato a quello che stiamo facendo e a quello che pensiamo di essere. Perché questa è una bugia. E forse tu sei ogni domenica, io ogni domenica sono qui e aggiusto le sedie e poi aggiustiamo i telinieri e poi aggiusto i bidoni nel foyer. E forse potrebbe essere tutto lì. Quella che è la chiamata ed è la missione che Dio mi ha affidato. O forse potrebbe essere che attraverso quello io sto arrivando a portare la salvezza ad un'intera nazione. Cos'è quello che tu fai? Come stai guardando quello che tu fai? Come stai vivendo la tua vita di ogni giorno? È un semplice uscire e fare le tue cose? È un semplice venire al gruppo familiare o guidare il gruppo familiare? È un semplice servire la domenica? Oggi c'erano delle donne fantastiche che ci hanno servito a tutti noi volontari con qualcosa di caldo e con dei dolci. E forse potrebbe essere solo quello. O forse dietro l'angolo c'è una nazione che le sta aspettando. O forse dietro l'angolo c'è una nazione che ti sta aspettando, che ci sta aspettando. O forse dietro l'angolo tu sarai come Filippo, che arriverà in una città dove nessuno è arrivato e che testimonierai di un Gesù vivo e vero e che porterai la salvezza dove non è ancora arrivata. Il Signore fa le cose strane. E io non lo so lui come si sia ritrovato in Samaria, però lui si è ritrovato in Samaria. E sai a cosa aveva detto di sì lui? A servire alle mense. Continuiamo. Continuiamo ancora, andiamo un po' più giù dal verso 26. E c'è sempre Filippo. E dice, un angelo del Signore parlò a Filippo così. Alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Ora voi immaginate, no? Filippo, finalmente era arrivato in Samaria, finalmente moltitudini, folle lo seguivano, lo ascoltavano, venivano battezzati, i demoni uscivano, il caos più totale, no? Come se noi mo' in mezzo alla fiera del crocifisso ci mettiamo il delirio, no? E poi Dio lo chiama a scendere verso quella strada che da Gerusalemme lo porta a Gaza, perché è una strada deserta. Non so per te o per me che cosa avremmo risposto in quel momento. Forse avremmo detto, Dio, ma non vedi qui che cosa sta succedendo? E me ne devo andare. Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Non vedi qui cosa tu stai realizzando attraverso della mia testimonianza? E io devo lasciare tutto questo per andare in una direzione che è una strada deserta. Verso 27, egli si alzò e partì. E io sono fermamente convinto che queste due parole sono quello che lo Spirito Santo sta dicendo al tuo cuore questa sera. Forse ti ha chiesto di andare in una strada che è deserta per te. E tu non vuoi andarci perché non ti piace. Ma il Signore ti sta dicendo stasera, alzati e vai. Perché su quella strada deserta un etiope e eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare e ora stava tornandosene seduto sul carro leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo, avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse, capisci quello che stai leggendo? E quegli gli rispose, e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Verso 35. Allora Filippo prese a parlare e cominciò da questo passo della scrittura e gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero ad un luogo dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse, ecco dell'acqua, cosa impedisce che io sia battezzato? E Filippo gli disse, se tu credi con tutto il tuo cuore è possibile. E l'eunuco rispose, io credo che Gesù è il Cristo e che è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo. Bellissimo questo. Questo è uno delle mie passaggi preferiti. Un po' tipo Star Trek, no? Ti rapì Filippo, bellissimo. Sto scherzando ovviamente. E l'eunuco continuò il suo viaggio, tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Noi corriamo per incontrare uno solo. Noi non corriamo solo per incontrare una nazione, perché Gesù ha lasciato le 99 pecore per andare a pescare una sola. E per me ha molto valore il fatto che Filippo abbia lasciato un territorio dove lui aveva potuto ministrare con potenza Gesù Cristo per andare in una strada deserta, dove lui non sapeva quello che avrebbe trovato, ma Gesù sì. E Gesù gli ha fatto incontrare una persona. E permettetemi di dire, una persona molto dubbia in quello che era la sua vita, in quello che erano le sue scelte, perché l'eunuco è una persona, è un uomo che viene castrato dei propri organi genitali. E io credo che qualsiasi uomo in questa condizione sia un uomo un po' confuso, sia un uomo un po' che non sa che cosa deve fare, sia un uomo forse al quale noi non andremo mai a dire che Gesù ti ama, perché non lo sappiamo. Filippo lo ha incontrato, perché per Gesù è importante ognuno, perché noi corriamo per andare ad incontrare uno solo. Chi è quell'uno solo che tu devi andare ad incontrare? Che è sulla tua strada? Che sta cercando Dio, ma che non lo sa che lo sta cercando, che non ha capito che lo sta cercando e che forse lo sta cercando anche in maniera sbagliata. Ma Gesù ha messo a te davanti alla possibilità di andare su una strada deserta dove tu lo puoi incontrare. E la cosa ancora più straordinaria, a parte il teletrasporto di Filippo, è che è diventato un missionario. Cioè Gesù lo ha portato su una strada deserta per poi farlo arrivare a tutte le città che si trovavano sul percorso per arrivare in Cesarea. Ed è diventato un missionario, è un testimone di Dio che da servire alle mense è arrivato da tutt'altra parte. Perché si è alzato ed è andato. Noi corriamo per incontrare una nazione, noi incontriamo per incontrare uno solo. Continuiamo. Questo incontro è il mio incontro preferito, quello che stiamo per leggere adesso. È l'elemento comune di ogni situazione è che lo Spirito Santo guida, è che lo Spirito Santo riempie, è che lo Spirito Santo ci porta. Saulo, Atti capitolo 9. Sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo. E caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli domandò: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Il Signore gli disse: alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti perché udivano la voce, ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. E quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo e né bevanda. È interessante vedere come lui era uscito sulla via di Damasco per portare distruzione a quelli che seguivano Gesù. E su quella via dove lui era uscito per portare distruzione a quelli che seguivano Gesù, lui ha incontrato Gesù. Ci avresti mai pensato tu ad una cosa del genere? Ora a Damasco si fa ancora più interessante la storia. C'era un discepolo di nome Anania e il Signore gli disse in visione: Anania. Ed egli rispose: eccomi, Signore, subito pronto. E il Signore disse a lui: alzati, va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda un tarso, uno di Tarso, chiamato Saulo, poiché ecco, egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose: Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto a tutti i tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma c'è da avere. Cioè, io sono un servo tuo così tranquillo, così fedele, così bravo, sempre pronto, eccomi, mandami, e tu mi vuoi mandare a morire. Cioè, stai calmino, no? Direi io. Ma il Signore disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. E poi, alzatosi, fu battezzato. E la storia continua, dove le persone erano confuse perché sapevano e conoscevano un Saulo che era pronto ad uccidere tutti quelli che incontrava sulla sua strada e che gli dicevano che Gesù era una speranza. La storia di Anania si può racchiudere forse in 20 versi, in tutta la Bibbia. È il piccolo tassello della sua storia, che può sembrare forse così piccolo, ha creato un qualcosa di così grande. Perché noi corriamo per incontrare quelli che non vogliono Gesù. Questa è una verità che io credo noi dobbiamo acquisire dentro di noi. Perché Saulo non voleva incontrare Gesù. Ma sai qual è la verità? È che a Gesù non importa. Lui ti vuole incontrare lo stesso. Non è il nostro non volerlo incontrare che non ci permetterà di incontrarlo. Noi corriamo per incontrare quelli che non vogliono Gesù. E forse noi saremo come quell'Anania. 20 versi. un piccolo tassello di quello che è registrato e che noi sappiamo, che ha permesso alla parola di Dio di arrivare a noi oggi. Perché Saulo era stato chiamato ad andare a tutti i popoli a testimoniare che Gesù era vivo e che lui era il Cristo. E tra tutti i popoli ci siamo noi. Ci siamo noi che non eravamo degni di sapere e di accettare e di accogliere quella salvezza e quella missione che Dio aveva stabilito anche per noi. È per questo che noi corriamo, per incontrare coloro che sono sulla via della salvezza. È per questo che siamo nella fiera del crocifisso. E io prego che noi possiamo uscire da questo posto questa sera con questa consapevolezza, che non ci serva uno stickers "c'è una speranza in Gesù" per ricordarci che questa è la nostra corsa, ma che questo sticker possa contagiare il nostro spirito e la nostra anima a ricordarcene ogni giorno, che possa essere il nostro tatuaggio che ci portiamo ovunque andiamo. Sì? Alziamoci in piedi. E invito anche la band a salire sul palco. Io credo che tante volte quello che c'è intorno a noi, o quello che pensiamo che ci aspetta il nostro domani, nel nostro domani, sia un freno a correre quella corsa per incontrare quelli che sono sulla via della salvezza. Ma questa è una bugia, perché niente di quello che è davanti a te è un freno per correre quella corsa, per incontrare quelli che Gesù sta aspettando di incontrare attraverso della tua vita. E io vorrei che noi potessimo chiudere i nostri occhi e pensare in questo momento e chiedere a Dio, a Gesù, allo Spirito Santo di aiutarci ad aprire i nostri occhi davanti a tutto questo. E magari attraverso le parole di questo canto, a confessare noi stessi che al di là di quello che accade, al di là di quello che ci aspetta domani, noi vogliamo correre quella corsa che ci porta ad incontrare quelli che sono su quella via della salvezza e che forse non lo sanno e hanno solamente bisogno che noi li guardiamo. In un clima di adorazione confessiamo queste parole sulla nostra vita, permettendo a queste parole di rompere ogni legame che ci tiene fermo, ogni cosa che ci blocca e che ci frena da quella consapevolezza che la nostra vita è una vita a parte di una storia ancora più grande. Alziamo la nostra voce, confessiamo